Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con il Groovemaster Studio per il soundcheck prova del suono di Radio 24. Buonasera da Gegé Telesforo e buonasera e buona domenica a un mio amico eccellente pianista che rappresenta il jazz italiano della nuova generazione con un nuovo album appena pubblicato da Cam Jazz intitolato Piano Tales, l'arte e il talento di Enrico Zanisi. Grazie Gegé. Ti è piaciuta questa presentazione? Sì, fantastica. Grazie a te. Noi ci siamo incontrati tante volte in giro per l'Italia. Sì. Jazz Festival, più volte ti ho invitato qui al soundcheck, sì. Finalmente riesco a vederti, no? Perché sei sempre in giro. Vabbè, ti ringrazio per avermi invitato. Non è un momento fantastico per la musica e i musicisti, però sono contento perché vedo che invece la tua attività continua ad andare a gonfie vele. Sì, mi ritengo fortunato, insomma. C'è un segreto particolare, oltre al fatto che sei bravo, sei anche un bravo manager di te stesso. Ma quello, diciamo, uno deve farlo a un certo punto. Sappiamo che non so, appunto, come detto, non sono tempi facili, per cui non è facile trovarsi concerti, insomma. Però io vedo che mi arrivano anche più che cercarmeli, per cui forse è un momento buono. Allora, prima di presentare Piano Tales, questo è il titolo del nuovo album per Cam Jazz, vorrei raccontare agli amici di Radio 24 un po' la tua storia. Tu vieni da una famiglia di musicisti, hai iniziato l'approccio con la musica attraverso la musica classica, che è la materia che frequentano i tuoi genitori, e poi piano piano ti sei affezionato al mondo del jazz e all'improvvisazione. Sì. È successo questo più o meno? Sì, è successo questo, anche se io quando ho cominciato a suonare era già praticamente per me improvvisazione, nel senso che ho sempre avuto un approccio intuitivo al pianoforte. Poi ho fatto il percorso classico, verso i 15 anni ho capito che quello che suonava aveva, insomma, qualche similitudine con il jazz e con i primi ascolti che facevo in quel senso, per cui poi ho deciso di proseguire su quella strada. Quindi quali erano gli artisti e i compositori classici che più ti intrigavano? Beh, sicuramente Bach e poi direi Debussy, ero un fan degli impressionisti, in particolare come Debussy, e poi successivamente di Ravel come compositore, veramente fantastico. E poi mi piace tantissimo suonare Chopin. Poi a un certo punto ti sei innamorato del jazz, ma come è stato, come è avvenuto il passaggio? Per i dischi, gli amici che ti hanno portato ai concerti? È stato semplicemente, diciamo, un disco che mi è passato per le mani, Sound of the Trio, un disco di Oscar Peterson, ecco. Mi è passato tra le mani, e quindi ho sentito questo disco, ho detto: ma c'è qualcosa che mi torna, diciamo, tra quello che faccio e questo, seppure chiaramente Oscar Peterson era per me una cosa di scioccante, insomma. Ecco, scioccante tecnicamente o perché era troppo impregnato di blues che invece perché nel mondo classico non c'è? Era pieno di musica mi dava un grandissimo divertimento ascoltarle, quindi volevo replicare quel tipo di sensazione. Sì, e la cosa bella è che continuando ad ascoltare Oscar Peterson continuiamo a divertirci. Sì, a me continua a piacere. Io... C'è una grande gioia di vivere proprio che io avverto. Insomma. È vero. Perché a volte invece questa gioia non la ritrovo nei giovani musicisti di jazz? Ma comunque i tempi sono cambiati, insomma, è chiaramente scoprizione di un'altra generazione, ma questo succede un po' in tutte le cose, credo. Secondo me c'è un diverso modo di ricercare la musica oggi, che chiaramente non può essere più allo stato solido, per cui cercare una cosa che sia fissa, ma deve essere necessariamente, cioè è purtroppo necessariamente un po' sfuggente, insomma, si vive più forse giorno per giorno. Che cosa ti piace del tuo lavoro? Beh, lo stare a contatto con le persone sicuramente, ecco, chiaramente in questo caso ho fatto un disco in piano solo, per cui sono stato a contatto con me stesso, che è una sfida comunque anche tosta, ecco, che non sono proprio certo. E come cambia la mentalità? Tu affronti di solito i concerti e i dischi in trio, questa volta ti sei ritrovato da solo in uno studio con un bel pianoforte. Beh, io concerti di piano solo ne avevo già fatti e che in studio è leggermente diverso, però insomma la sensazione è sempre quella di essere di potersi concentrare al massimo, ma anche di essere super scoperto, e quindi insomma bisogna trovare il giusto balance tra le due cose e avere comunque coraggio di portare avanti delle idee. Allora, prima di scoprire che cosa hai combinato in Piano Tales, vorrei proporti un gigante del jazz, praticamente un innovatore del pianismo jazz, ovvero Art Tatum. Qui in una ripresa del 1955 in un ambiente familiare si sentono i bicchieri, si sente del brusio, amici che sono lì e in un brodo di giuggiole ad ascoltare questo gigante del jazz che propone la sua versione di Sweet Lorraine qui al soundcheck di Radio 24. Il suono inconfondibile di Art Tatum dietro a un pianoforte verticale, invece direi, mio caro Enrico, di passare invece dietro al tuo gran coda. Mi sembra un bellissimo gran coda. Sì, è un, ho registrato, c'è un Fazioli che com'è? È un bel piano, sì, è un bel piano. Insomma, poi io Fazioli sono abbastanza, ho avuto modo di suonarli spesso, insomma sono è un bel orgoglio italiano, diciamo, se vogliamo dire così. È vero, il Fazioli è uno dei migliori pianoforti in circolazione ormai da diversi anni. Da diversi, insomma, anni, anche Herbie Hancock, per dire, non si può essere endorser di pianoforti perché è difficile, però comunque preferisce sempre avere un Fazioli. Eh sì, avere l'endorsement significa avere un marchio che ti supporta, sì, e ti fa trovare lo strumento dappertutto. Certamente non ti puoi portare dietro un pianoforte a coda, sebbene io abbia conosciuto Lyle Mace in tournée con Pat Metheny quando facevamo un programma in televisione che si chiamava Doc, e si presentò col suo Steinway preparato MIDI. Sì, beh, ma voglio dire, parlando di musica classica, Arturo Benedetti Michelangeli si faceva portare il suo pianoforte. Ecco qui, quando arrivi a questo sei un spero di non arrivarci. Allora, direi di ascoltare subito qualcosa da Piano Tales, e invece di partire con una composizione originale sentiamo proprio l'unico standard presente, così facciamo, ecco, ci avviciniamo a Art Tatum, no, perlomeno per la scelta artistica. Sì. Il brano è bellissimo, si intitola Spring Can Really Hang You Up The Most, di Tommy Wolfe, Enrico Zanisi al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Di nuovo presenti dal Groovemaster Studio dopo l'informazione di Radio 24 e dopo questa esecuzione del pianista Alfredo Rodriguez, supportato dalla produzione di Quincy Jones, questo pianista che si cimenta qui in un movimento tipico di Johann Sebastian Bach, tanto per farci capire che anche lui ha fatto gli studi classici, anche se questa versione poi ritmicamente sposta un po' gli accenti, sì, e ritmicamente in sette ce lo propone. In sette. Enrico Zanisi, nostro ospite qui al soundcheck di Radio 24 per parlare della sua passione per la musica, il suo amore per il pianoforte e anche questo nuovo album intitolato Piano Tales. Allora, è stato importante anche per te Johann Sebastian Bach, lo hai detto prima all'inizio dell'intervista. Che cosa si apprende ancora oggi studiando Bach? Beh, si apprende una grandissima, diciamo, innanzitutto una grandissima pratica musicale, cioè il fatto di conoscere chiaramente la propria materia, e poi un grandissimo desiderio anche di, secondo me, comunicare quello che sono il proprio modo di vivere la vita. Insomma, Bach è stato raffigurato come un, all'epoca non si poteva essere altrimenti, comunque come un devoto di Dio, uno che scrive una cantata a settimana, insomma ci vuole veramente una certa. Però quello che ci arriva oggi invece è una grandissima modernità, anche grazie alla capacità contrappuntistica così elevate di insomma un gigante veramente come Bach, che suonarlo fa bene, fa tanto bene. Ecco, tu sei onnivoro musicalmente, ascolti di tutto. Cerco di ascoltare più cose possibili. Tutta la nuova tendenza statunitense, no? Questi andazzi groovosi, questa commistione fra la tradizione del jazz, il gospel, l'R&B, ti intriga o no? Sì, beh, insomma è il nuovo che c'è, anche anzi già un po' di tempo, perché insomma Robert Glasper è già qualche anno che ha dato il via alle danze, insomma, e quindi sicuramente è anche un modo per avvicinare questa commissione del jazz con il gospel, con il rap, Kendrick Lamar, e insomma tutte queste nuove tendenze sono anche un modo per avvicinare più gente possibile a questo genere musicale. Ci sei stato a New York? Ci sono stato 3 volte, sì. Come la trovi? Insomma, è un bel po' caotica, e sicuramente entrare in posti storici come il Village Vanguard o il Birdland, il Blue Note, insomma è stata una bella esperienza. Poi tra l'altro ho visto anche dei bei concerti, insomma si respira che ancora quest'aria. Allora, Enrico, direi di ascoltare finalmente una composizione originale tratta da Piano Tales, questo è il titolo, lo ripeto, dell'album prodotto per Cam Jazz, composizione originale che credo abbia un titolo titolo in portoghese, Uma História. Uma História, sì, Uma História. Ma che cosa c'è dietro a Uma História? Non è, diciamo, non è che volevo dare un titolo in portoghese perché il brano ha qualche, non so, nuance di bossa nova così, ma semplicemente perché mi piace molto spesso do i titoli perché mi piacciono le sensazioni che danno le parole accostate l'una dall'altra. Uma História mi piace in maniera particolare perché il brano sembra come se raccontasse una storia, c'è una parte in un certo modo, un'altra in un altro. E c'è una storia dietro questo brano? Non in particolare, direi, ognuno potrà trovare la sua. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Brad Mehldau, questa è la sua versione di Blackbird, mi è sempre piaciuta tantissimo questa composizione di Paul McCartney riproposta da ormai un pianista leggendario. Un tempo dicevamo, ecco, questo è il nuovo jazz, il jazz che avanza, è il migliore fra i nuovi pianisti, adesso è una leggenda proprio. È già leggenda, sì. È già leggenda. Enrico Zanisi, ospite del Soundcheck questa sera, abbiamo presentato Piano Tales, questo è il titolo del nuovo album per Cam Jazz. Abbiamo ancora una manciata di minuti a nostra disposizione, vorrei anticipare che sabato prossimo si festeggerà il jazz in tutto il mondo con l'International Jazz Day, un appuntamento importante per non dimenticare quanto di buono fa il jazz, ma proprio a livello umano, non solo certo, a livello musicale. Certo, cioè a livello di comunità, insomma, è uno strumento potentissimo. Sì. Strumento potentissimo, tu festeggerai in qualche modo? Sì, diciamo appunto, salvo imprevisti, dovrei presentare questo album alla Casa del Jazz, dove ci sarà appunto, sarà festeggiato anche lì l'International Jazz. Io pure dovrei farmi, salvo imprevisti, perché non si sa mai, no, con la musica di questi tempi che succede, dovrei fare anch'io una performance con vari amici al coro live che abbiamo inaugurato quest'anno, quindi magari se finisci presto, tanto lì alla Casa del Jazz di solito si inizia puntualissimi alle 9. Sì, infatti passerò e allora vieni a bere un cocktail con noi e magari ci facciamo finalmente una suonata insieme se ti sicuro. Allora Enrico, io sono contento di essere stato con te per rintracciare un po' le date, verificare la tua attività. Tu hai un sito internet? Sì, c'è un sito www.enricozenisi.com, poi c'è una pagina ufficiale Enrico Zanisi Official su Facebook per chi segue insomma i social. Sei schiavo dei social, di internet? No, particolarmente, diciamo, non sono molto bravo in queste cose, però insomma ci provo e credo che siano anche uno strumento al giorno d'oggi indispensabile. Guarda, io ti faccio i complimenti per la tua preparazione, per la tua simpatia, umiltà e poi soprattutto perché fai dei concerti bellissimi, quindi non vedo l'ora di venirti ad ascoltare in solo piano, sarà un'esperienza splendida come sempre. Vi lascio allora con un'ultima composizione, posso dirlo che questa è una delle mie preferite di questo album? Certo. Il brano si intitola Ma, nel senso, non so se Ma è un'esclamazione, dice Ma chissà che succede, oppure è un brano dedicato tua madre. Questo diciamo lo possono decidere gli ascoltatori. Fatto sta che credo che questo, ecco, per esempio questo è un bel tema che potrebbe essere utilizzato da un regista sensibile per, come sottofondo di immagini importanti. In questi casi a Roma si dice magari ci cascasse. Ecco, speriamo proprio di sì. Allora vi lascio con Enrico Zanisi, il brano si intitola Ma, una sua composizione, l'album è Piano Tales Camp Jazz. Io vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo sabato prossimo sempre su questi schermi per l'International Jazz Day a partire dalle 19:15 con il Soundcheck. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo e Enrico Zanisi. Buonasera.